Focus Economia. Un saluto da Vincenzo Miglietta e bentrovati con una nuova puntata di Focus Economia, puntata che toccherà diversi temi, ma prima uno sguardo rapido ai mercati a poco meno di mezz'ora dalla chiusura delle borse europee. FTSE MIB più 2,45% a 17.290 punti, FTSE All Share più 2,27% a 18.316 punti, tutte positive gli altri listini europei. Wall Street Dow Jones più 0,35%, Nasdaq più 0,96%, cambio euro-dollaro più 1,33%, spread BTP Bund a 10 anni in discesa a 240 punti base con rendimento 4,32%. Giornata dunque positiva per i mercati, affossati invece nei primi tre giorni della settimana soprattutto dall'attesa di quanto avrebbe fatto la Fed nel suo aiuto all'economia americana. Ora il quadro è un po' più chiaro dopo la pubblicazione ieri sera delle minute e di questo parleremo nel nostro primo appuntamento. Passeremo quindi all'analisi della giornata di Piazza Affari, le prestazioni dei vari titoli, i migliori e i titoli più scambiati. Altri temi al centro della nostra puntata, poi cosa sta accadendo all'area industriale di Taranto dopo le vicende giudiziarie che hanno bloccato a lungo una zona strategica per l'industria siderurgica del nostro paese. Quindi un tema caro a Focus Economia, l'avvio della vendemmia e tutto ciò che rappresenta il settore vinicolo in Italia. Questi dunque i temi di Focus Economia di oggi. Aspettiamo i vostri suggerimenti al numero per gli SMS 349-238-6666. Vi ricordo la pagina di Focus Economia su Facebook. Ora possiamo passare alle consuete notizie in breve. Partiamo al solito dalle materie prime. Oro in calo in Asia a 1.364 dollari, meno 0,8%. Petrolio apre in rialzo a New York a 104,29 dollari, più 0,4%. Economia internazionale, vi sono elementi positivi, la stima flash dell'indice PMI che misura l'attività manifatturiera in Cina ha mostrato in agosto un inatteso progresso da 47,7 a 50,1 punti, il livello più alto degli ultimi 4 mesi, l'indice pone quota 50 come spartiacque tra contrazione ed espansione dell'attività economica. L'India ne abbiamo parlato ampiamente in questi giorni, arrivano rassicurazioni dalle autorità economiche di New Delhi di fronte alla forte flessione della rupia nei confronti del dollaro e al cedimento ripetuto della borsa di Mumbai. Il ministro delle finanze indiano Chidambaram ha detto oggi che non vi sarà alcun controllo sui capitali, compresi quelli che devono essere rimpatriati. La Reserve Bank of India, ha detto ancora il ministro, non ha mai praticato questa politica e non la farà mai. Ora gli Stati Uniti. Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono salite di 13.000 unità a quota 336.000. La media delle richieste nell'ultimo mese, indicatore meno volatile, è scesa a 330.500 unità, ai minimi dal 2007. Il super indice economico americano ha realizzato in luglio un aumento dello 0,6%, il dato è superiore alle attese degli analisti che scommettevano su un aumento dello 0,5%, lo comunica il Conference Board. E veniamo all'Eurozona, anche qui si tratta di un indice molto importante, l'indice PMI che misura l'attività economica dell'Eurozona segna 51,7 punti ad agosto, superando le attese, erano 50,9, e accelerando rispetto a 50,5 di luglio. L'indice torna a segnalare crescita per i servizi e la manifattura. Bene anche la Germania sopra 52, sia per il terziario che per il manufatturiero, mentre la Francia resta sotto i 50 punti che separano l'espansione dalla contrazione. 13 fra le maggiori banche britanniche, fra cui Barclays, Lloyds e Royal Bank of Scotland, dovranno pagare una multa di 1,3 miliardi di sterline per risarcire i clienti cui avevano venduto polizze assicurative contro il furto di identità sulle carte di credito. A novembre le autorità avevano appurato che il gruppo assicurativo CPP che forniva le polizze aveva esagerato i rischi nascondendo clienti che erano già coperti dalle banche fino a 100.000 sterline. Ora la Spagna, elementi positivi per la Spagna sul fronte deficit. Quello commerciale si è ridotto nella prima metà dell'anno del 68,8% fino a 5.824 miliardi di euro, in pratica un terzo di quello dello stesso periodo del 2012. Lo ha reso noto il segretario di Stato Jaime García López. Le esportazioni fino a giugno hanno raggiunto invece i 118,7 miliardi di euro, pari all'8% in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. La Spagna non ha mai esportato tanto, dal 71, ha detto López. Le importazioni sono invece diminuite del 3,2% su base annua. Quindi dati positivi per la Spagna, dati che arrivano per la penisola iberica anche sul fronte del turismo. Ne abbiamo parlato ieri, ma oggi ci sono dei dati ufficiali. Il turismo tira l'economia spagnola, come confermano i 7,9 milioni di stranieri che hanno visitato la penisola a luglio, con un aumento del 2,9% rispetto allo stesso mese del 2012 e un record di presenze dal 95. Secondo il rilevamento sui movimenti turistici alle frontiere, diffuso oggi, i maggiori arrivi sono stati quelli dei turisti britannici, che rappresentano il 23,2% del totale, con un aumento del 3,4% rispetto a luglio dello scorso anno. Al secondo posto i visitatori francesi, pari al 16% del totale e aumentati del 2,2%, seguiti da quelli tedeschi, pari al 15% del totale. In diminuzione invece i turisti provenienti dall'Italia, vi è stato un meno 14,5%. Parliamo di turisti italiani e veniamo al nostro paese per questioni fondamentali come l'IMU e l'occupazione. Per quanto riguarda l'IMU, si è svolto verso l'ora di pranzo un incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Letta e il Ministro dell'Economia Saccomanni. Al centro dell'incontro, logicamente, il dossier sull'IMU, e ricordiamo che il governo si è impegnato a riformulare tutta la tassazione sul settore immobiliare entro il 31 agosto. Il Ministero per l'Economia e le Finanze, in calo le liti fiscali. Nel secondo trimestre del 2013 si osserva la riduzione tendenziale del nuovo contenzioso, che cala del 5,64% rispetto allo stesso periodo del 2012. Sono quasi 5.000 i ricorsi in meno. Vi è quindi un calo del 21,95%. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze spiegando che inoltre il numero dei ricorsi complessivamente definiti nelle commissioni tributarie risulta superiore al numero dei ricorsi pervenuti, contribuendo alla riduzione della giacenza dell'1,49% sull'inizio dell'anno. Un indicatore che la crisi sia tuttora in corso, certo non serviva questo indicatore qui, ma è importante sottolinearlo: la crisi sta colpendo soprattutto il reddito e i consumi delle famiglie. La contrazione nell'erogazione del credito alle famiglie si è fatta sentire soprattutto al sud, consolidando il rischio di usura. Ad affermarlo un'analisi del centro studi della CGA di Mestre. Secondo lo studio, tra il maggio del 2012 e lo stesso mese di quest'anno, la riduzione ha interessato soprattutto la Calabria, meno 4,3%, e la Basilicata, la Sicilia e il Molise, ultima la Campania, meno 2,6%, con un monte impieghi che è diminuito di 794 milioni di euro. Il mercato del lavoro, oggi un approfondimento importante sul Sole 24 Ore in edicola, nuove regole sui contratti, tante tipologie, come orientarsi proprio tra i tanti contratti previsti dalla nuova normativa. E in tema di politiche per l'occupazione, la nostra collega Elisabetta Fiorito ha intervistato Iole Santelli, Popolo della Libertà, sottosegretario al lavoro, chiedendole innanzitutto quali cambiamenti siano stati apportati alla precedente legislazione. Siamo intervenuti con delle modifiche alla cosiddetta flessibilità in entrata della legge 92, cioè della cosiddetta legge Fornero. Gli ascoltatori ricorderanno che al momento del varo di quella legge ci fu una grossa, diciamo, discussione all'interno di chi appoggiava quel governo, fra virgolette, sull'interpretazione, cioè noi sostenevamo che irrigidire in un momento di crisi l'entrata nel mondo del lavoro significava un blocco dell'economia e era una forma decisamente negativa di approcciare un momento di crisi economica. Purtroppo, dico, per l'Italia e per tutti noi, i dati ci hanno dato ragione, si è dovuto in qualche modo riaprire. Di buono c'è che nel principio, ecco, in punto di principio, alcune situazioni si sono riaperte. Immagino, per esempio, si sono allargati dei tempi sulla contrattazione a progetto, si sono allargate, insomma, una serie di situazioni. Forse si poteva usare di più, anzi, credo che si dovesse usare di più. Rimane aperto il capitolo dell'Expo. Rimane aperto il capitolo dell'Expo, che credo che sia un po' la spia della situazione. L'Expo viene considerato in qualche modo, e veniva considerato anche dal governo stesso, avendolo inserito nel decreto, quella che è la grande occasione italiana di rilancio dell'economia. Ora, a questa grande occasione di rilancio, come risponde la legislatura sul lavoro, tutta la legislazione sul lavoro? Può rispondere o, come si era detto inizialmente, come proposta, che è una proposta di mediazione, cioè demandando a una contrattazione successiva con le parti sociali, o la possibilità di rendere più flessibile la legislazione. Io ritengo su questo punto che invece dovesse essere la politica, quindi il Parlamento, il Governo e il Parlamento, ad assumersi la responsabilità di dettare delle norme che potessero effettivamente lanciare, quindi che non possiamo chiedere ai sindacati di tornare indietro su alcune posizioni o alle parti sociali o Commindustria. Dobbiamo essere noi ad assumerci le nostre responsabilità se consideriamo Expo un periodo eccezionale. Credo che abbiamo perso un'occasione. Mi auguro che però nella contrattazione che verrà successivamente anche sindacati e parte, diciamo, industriale e parte datoriale abbiano la consapevolezza che veramente bisogna abbandonare qualsiasi ideologia e cogliere al volo l'occasione che ci si presenta. Così dunque Iole Santelli, sottosegretario al lavoro, intervistata da Elisabetta Fiorito. Anticipiamo brevemente un tema che approfondiremo nell'ultima parte di Focus Economia. Parliamo di vendemmia, produzione di buona qualità attorno ai 42 milioni di ettolitri, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno, sono le previsioni della Coldiretti per la vendemmia di quest'anno, in occasione proprio di oggi della raccolta dei primi grappoli di uva nell'Oltrepò Pavese e in Francia Corta. Ci fermiamo qui con le notizie in breve, ora il nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che dedichiamo al mondo della finanza, ai verbali della riunione della Federal Reserve del 30 e 31 luglio, resi noti ieri, che confermano l'intenzione di avviare gradualmente un exit strategy sul piano di stimoli all'economia. In particolare verranno progressivamente ridotti gli acquisti di titoli da parte della Fed, che al momento ammontano a circa 85 miliardi di dollari al mese. Permane però una forte incertezza sulla tempistica dell'operazione, come mostrano anche le divisioni all'interno del board dei governatori. Parliamo di tutto ciò con il nostro ospite, il professor Marco Onado, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, professor Onado. Buonasera a voi. Buonasera e ben trovato a Focus Economia. Dicevamo bene che i segnali arrivati dalla Fed sono per una graduale riduzione, un cosiddetto tapering degli aiuti agli acquisti di titoli, ma che comunque resta una divisione nella Fed e che questo clima lascia un po' interdetto il mercato, professore. Sì, dobbiamo dire che quello che ha fatto la Federal Reserve è eccezionale, è in qualche modo assolutamente al di fuori dei canoni di quello che avevano finora fatto le banche centrali. 85 miliardi di dollari di acquisti di titoli a lungo termine al mese, come avete ricordato prima, sono una cosa assolutamente eccezionale. Quindi ci sono due problemi. Uno, che tutto sommato l'economia americana sta migliorando, anche se non sono stati raggiunti obiettivi in termini di aumento dell'occupazione, di diminuzione della disoccupazione, come la Fed aveva indicato. E secondo, il rischio degli effetti collaterali di questa terapia, che è assolutamente eccezionale e mai sperimentata prima, e quindi è ovvio che una exit strategy si impone, e credo abbastanza singolare che i mercati si stiano interrogando sul fatto se questo tapering, questa attenuazione della manovra cominci a settembre, a ottobre o a novembre. È il segno di un nervosismo dei mercati più che di incertezza, a mio parere. Ecco, professore. È il segno del fatto. Sì, prego. No, e tra l'altro, gli aiuti ai mercati. Solitamente, almeno in Europa, è un dibattito che va avanti da tanto tempo, perché l'aiuto al mercato viene visto sempre come qualcosa di anomalo, di esterno e che indebolisce la concorrenza del mercato stesso. Per assurdo, però, adesso i mercati internazionali, qualora la Fed dovesse uscire in breve tempo da questo sistema di aiuti, lo vedrebbero in negativo. È un po' un controsenso, i mercati penalizzano se ci sono degli aiuti in Europa, ricordiamo quanto è stato fatto per la BCE verso, per esempio, la Grecia e l'Italia. Delle manovre, di queste manovre eccezionali delle banche centrali è limitato, mentre l'effetto diretto di sostegno all'attività economica, ma anche alle operazioni di trading e quindi alle speculazioni è diretto, quindi tra le due cose i mercati non hanno dubbi che la seconda è molto meglio della prima. Assolutamente. E comunque l'intervento della Fed va ad inserirsi su un'economia internazionale molto in fibrillazione. Lei oggi scrive sul Sole 24 Ore che per la prima volta da diversi anni i governatori delle banche centrali delle varie zone del mondo, che può essere gli Stati Uniti, l'Europa, ma anche tutte le economie emergenti asiatiche, hanno obiettivi diversi, e questo complica comunque la ripresa mondiale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è finita la situazione di assoluta emergenza che aveva indotto le banche centrali dal 2007-2008 in poi ad agire di concerto per tamponare gli effetti peggiori della crisi. Se non si è avuto un disastro come negli anni 30, lo dobbiamo proprio alla diversa azione delle banche centrali e, ripeto, al fatto che tutte hanno agito di concerto, ma era quella più l'eccezione della regola, e adesso ognuno ha i suoi problemi. Gli Stati Uniti l'ho appena ricordato, l'Europa invece ne ha altri legati alla ripresa, che è molto più debole, e al problema finanziario, dell'integrazione finanziaria, che è ancora irrisolto, e così via, insomma, e quindi ognuno va un po' per la sua strada, e questo, ripeto, questo ovviamente aumenta l'incertezza. E il problema è che sono le politiche economiche che devono dare certezze, le banche centrali credo che possono dire: noi abbiamo già dato. Certo, professore. Un caso particolare di questi giorni, l'abbiamo già affrontato in settimana qui a Focus Economia, è quello dell'India, ma l'India lo prendiamo come esempio di tante economie molto aggressive negli scorsi anni che però negli ultimi periodi si trovano un po' in difficoltà sia per la stretta sulle materie prime che onestamente causa la crisi internazionale hanno una minore domanda, c'è cioè meno domanda anche e flusso di moneta pregiata. Che fine faranno questi paesi a partire dall'India, il Brasile, il Sudafrica? E aggiungerei anche la Cina, perché anche la Cina ha qualche problema, insomma sono, come diceva lei prima, paesi che sono cresciuti molto e ognuno con qualche elemento di squilibrio, di asimmetria, insomma uno di questi è l'eccesso del credito, le condizioni fragili del sistema bancario, finché noi in Europa abbiamo visto un giorno sì, un giorno no, e ovviamente insomma il problema è ancora quello, la scommessa se che sia Cina che India riescono a realizzare un atterraggio morbido, insomma, quindi fermarsi su livelli di crescita meno elevati del passato, ma comunque significativi. Ecco professore, ma queste economie nelle loro difficoltà hanno degli effetti diretti poi sull'eurozona? Cioè dobbiamo guardare anche noi con preoccupazione un rallentamento della crescita cinese e di quella indiana o siamo comunque tendenzialmente sganciati da quei mercati interni lì? L'economia globale non ammette sconti da questo punto di vista. Se rallenta la Cina, rallenta l'India, più la prima forse della seconda, l'effetto sulla domanda globale e sulla crescita complessiva è immediato. Noi stiamo ragionando su una crescita del PIL mondiale che tutto sommato non è, no? Perché è stimata dal Fondo Monetario intorno al 4%, non è una cosa a record, quindi se rallentano, la Cina ormai è la seconda economia mondiale in termini di dimensione assoluta del PIL, no? Quindi se rallenta la Cina non è un grosso problema, se frena la Cina sì. Assolutamente. Professore, le rubo un ultimo minuto per chiederle se dal suo osservatorio comunque privilegiato si allinea anche lei all'ottimismo che circola un pochino nel governo italiano di vedere comunque una certa luce alla fine del tunnel anche per quanto riguarda l'economia italiana, forse sull'onda dell'ottimismo anche dei dati dell'export italiano che a dire il vero comunque non si è mai fermato. Premesso che io non ho un osservatorio privilegiato, diciamo che ho il vantaggio di essere neutrale anche dal punto di vista politico, insomma, quindi non ho un bias, però io voglio dire, sono i numeri che lei ha ricordato sono assolutamente veri. Dire che è in atto una ripresa non è ancora possibile. E anche sulla luce al fondo del tunnel sarei cauto, primo perché menagramo, tutti quelli che hanno detto che negli ultimi anni che vedevano la luce hanno fatto una brutta fine, insomma, come Wile Coyote nei cartoni animati, insomma. È vero, senza fare nomi c'era anche un ministro del precedente governo che nel 2009 già vedeva la luce alla fine del tunnel. Sì, ma è in ottima compagnia, devo dire, insomma. Bene, fintanto che non si tradurrà in domanda e occupazione, credo che i segnali. È comunque importante che l'attività produttiva e l'export regga, insomma, no? Questa è l'Italia che sta tenendo botta la crisi e sta aiutando ad evitare il disastro. Da qui a parlare di ripresa. Ce ne vuole ancora. Ho bisogno di qualche numero in più. Insomma. Va bene, grazie per il suo intervento. Ringraziamo grazie il professor Marco Onado. Buon pomeriggio ed ora il meteo. Di nuovo insieme per la seconda parte del nostro programma. Ricordo brevemente il numero per i vostri sms: 349-238-6666 e poi la nostra pagina Facebook di Focus Economia. Ora tutta la pagina dedicata a Piazza Affari. Piazza Affari, che insieme a tutte le altre borse europee oggi segna, primo giorno della settimana, un dato nettamente positivo. Parliamo di tutto ciò con Guido Maurino, collega di Radio Cor del Sole 24 Ore. Ben trovato, Guido. Grazie, un saluto a tutti. Guido, allora partiamo dal FTSE MIB e da Piazza Affari. Quali sono i numeri di chiusura? Ha chiuso a più 2,56%, il FTSE Share a più 2,36%, oggi una giornata positiva un po' per tutti i listini, abbiamo visto che anche nel resto d'Europa, fra Parigi, Londra e Francoforte, si sono mosse tutte le borse in rialzo fra il punto e i due punti percentuali. C'era una grande attesa nei giorni scorsi, l'avevamo raccontato, per quello che doveva succedere sulla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve per capire se la Banca Centrale Americana avrebbe continuato a sostenere l'economia attraverso gli acquisti di asset che attualmente equivalgono a 85 miliardi di dollari al mese e che in prospettiva dovrebbero iniziare a scendere. Ma oggi, più che a questa riunione, a questi verbali che non hanno dato un'interpretazione univoca con i governatori spaccati fra chi vorrebbe iniziare presto a ridurre l'acquisto di asset e chi invece teme che una riduzione degli acquisti potrebbe nuocere alla ripresa americana, appunto tutti questi dati sono stati un po' trascurati, perché sono arrivati invece dei dati sulla manifattura, quindi sull'industria in Cina e in Europa, dati positivi che fanno sperare in una ripresa del settore e che quindi oggi hanno trainato sia i titoli industriali europei, sia anche, abbiamo visto a Milano, le banche che erano state fra le più penalizzate nelle ultime giornate. Ecco, banche penalizzate nelle ultime giornate, oggi ben in particolare UBI e Banco Popolare, c'è un motivo particolare per questi titoli? Guarda, oggi sono andate bene le BPER più 5,07%, UBI più 4,51%, Banco Popolare più 4,2%, sono andate bene un po' come tutto il settore, perché comunque lo spread oggi è leggermente diminuito, si è attestato in area 240 punti base, ma si inizia anche a scommettere sui risultati semestrali. Questi istituti, le popolari in genere, danno i risultati semestrali nella seconda parte di agosto, a fine agosto, in particolare il Banco Popolare e UBI sono attese dei conti la prossima settimana, e in qualche modo si inizia anche un po' a scommettere su quello che potranno essere i risultati semestrali di questi due istituti. Ecco, questo per quanto riguarda quindi i bancari. Salta all'occhio il titolo Finmeccanica, che chiude più 6,30%, dopo però un inizio di settimana molto in difficoltà, perché legato anche a delle commesse internazionali. Oggi perché questo più 6%? Ma in parte si tratta di un rimbalzo, il titolo aveva perso circa il 10% nelle 5 sedute precedenti, per cui sono scattate anche un po' di ricoperture da parte degli operatori, e in parte c'è una notizia positiva dopo tante notizie negative, perché secondo quanto ha riportato la stampa coreana, il gruppo Doosan è al lavoro per raccogliere i capitali per finanziare l'acquisizione di Ansaldo Energia. Si sapeva che Doosan era uno dei candidati a rilevare Ansaldo Energia. A questo punto, visto che si arriva anche alla raccolta proprio dei capitali, c'è la scommessa su un'accelerazione per questa cessione di una controllata di Finmeccanica, un'operazione che potrebbe valere fra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, secondo le indiscrezioni. Bene, Guido, e poi abbiamo Mediaset, vedo più 3,86%, anche oggi mi sembra forse il titolo si è un po' lasciato alle spalle la fibrillazione legata comunque ai suoi riferimenti politici. Sì, nelle ultime due sedute c'erano stati un po' di cali per quello che riguarda Mediaset, e qualcuno le attribuiva proprio all'incertezza sull'esito del dibattito politico legato all'incandidabilità di Silvio Berlusconi. di Silvio Berlusconi. Oggi questi timori sono un po' venuti meno, sono stati lasciati sullo sfondo dal mercato, e anzi il titolo ha guadagnato bene e si è avvicinato ai massimi dell'anno. È attualmente molto vicino, perché in area 3,4 euro, i massimi sono vicino ai 3,5 euro per azione, per cui il titolo sembra pronto, secondo quanto dicono gli operatori, a toccare nuovi massimi a breve. Ecco Guido, oggi potremmo parlare, credo, forse di tutti i titoli del listino, perché consegno meno, vedo Telecom Italia meno 0,59, ma poi tutti consegno positivo, per esempio, sempre che si dia importanza a questi report, molti li mettono in dubbio, Morgan Stanley ha dato un via libera anche ad Atlantia. Sì, è andata bene Atlantia, ho già guadagnato il 2,44%, questo report in realtà non dice nulla di particolare, se non mettere a confronto il titolo con quello che stanno facendo i suoi competitor, e da questo confronto emerge come Atlantia sia in questo momento leggermente sottoprezzata rispetto alle società comparabili, e in più potrebbe anche approfittare di una ripresa del traffico autostradale che viaggia in contemporanea un po' anche con attesa di una ripresa economica. Sulla base di queste indicazioni Morgan Stanley ha diffuso oggi un report positivo su Atlantia, indicando un prezzo di 15 euro per azione. Il titolo oggi ha chiuso a 14,29 euro, con questo più 2,44%. Ecco Guido, se puoi stare con noi un altro minuto, ti volevo chiedere perché anche Fiat, anche se i titoli sono diversi, Fiat Industrial e Fiat, ma sono tutte e due comunque a più 3,46% l'uno, più 4,87% l'altro, come mai dopo aver avuto giorni in difficoltà sono premiati dal mercato? Forse le prime indiscrezioni ieri, comunque se non sbaglio, di un ritorno in un dato positivo per quanto riguarda le immatricolazioni? In realtà oggi si sono mossi proprio tutti gli industriali. Quando è uscito il dato sull'indice manifatturiero europeo, che è stato un dato positivo, abbiamo visto come tutti i titoli legati un po' al settore industriale siano scattati verso l'alto, perché ci sono, come dire, scommesse di una prima ripresa. Lo dimostra il fatto che, oltre appunto a Fiat e Fiat Industrial, possiamo guardare un altro titolo industriale per antonomasia, che è Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, che ha guadagnato il 3,48%. Bene Guido, ti ringrazio, grazie del tuo contributo. Un ascoltatore ci chiede in questo momento, anzi sono più di uno, attraverso gli sms al 349-238-6666 del titolo Unicredit, andiamo a leggere più 3,67%. E passiamo ora ad un altro tema di Focus Economia. Sempre nel ringraziare Guido Maurino di Radio Cor del Sole 24 Ore per il suo intervento nella parte dedicata a Piazza Affari, passiamo ora a trattare un argomento che negli ultimi tempi forse è rimasto un po' nascosto, perché non vi sono stati elementi di cronaca e cronaca giudiziaria a riportarlo in auge, ma è uno dei settori industriali, comparti economici più importanti del nostro paese. Parlo dell'Ilva, della zona di Taranto. Ricordiamo tutto ciò che è successo nei mesi scorsi, i guai giudiziari della proprietà di riferimento, l'intervento della magistratura, l'intervento più volte anche del governo e del braccio di ferro tra governo e magistratura. Abbiamo con noi Domenico Palmiotti, collega del Sole 24 Ore. Ciao Domenico. Buonasera agli ascoltatori di Radio 24 e di Focus Economia. Ciao Domenico, senti, innanzitutto qual è la situazione ora nella zona di Taranto, con una notizia che prendo spunto dal tuo articolo di oggi sul Sole 24 Ore: parte l'attività di bonifica di Taranto. Quindi al momento si tratta di bonifica, ma non di attività industriale? Sì. Sì, si tratta appunto di bonifica, perché un anno fa eravamo nel pieno della tempesta con la vicenda giudiziaria al suo punto critico, i sequestri degli impianti. Un anno dopo la situazione è un tantino più stabilizzata, nel senso che l'azienda appunto dal giugno scorso è commissariata e adesso sta partendo in queste settimane il grande cantiere della bonifica, la bonifica dai danni prodotti dall'inquinamento dell'Ilva in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni. La bonifica ovviamente si esplica su vari fronti, c'è un primo fronte che attiene l'interno della fabbrica e quindi qui la bonifica sarà fatta attraverso le prescrizioni dell'AIA, che è la sigla di autorizzazione integrata ambientale, cioè una serie di modifiche e di interventi sugli impianti che nell'arco di 3 anni e quindi sino al 2015 dovranno essere fatti su tutti gli altri impianti del ciclo dell'aria a caldo che producono più inquinamento. Quindi questo è il primo intervento. Poi c'è una bonifica esterna all'Ilva e questa è affidata ad un commissario che è Alfio Pini ed è regolata da una legge specifica, e questa bonifica riguarderà il quartiere Tamburi, che è il più vicino allo stabilimento dell'Ilva, il comune di Statte, anch'esso vicino al siderurgico, e poi aree come il Mar Piccolo di Taranto, che in questi anni hanno assorbito tutti gli scarichi inquinanti della grande industria. Infine c'è un terzo aspetto che riguarda la creazione di strutture ad hoc da parte dell'ARPA Puglia, che è l'Agenzia di Protezione Ambientale dell'ASL di Taranto, per tenere sotto controllo tutti i principali inquinanti e quindi offrire una lettura aggiornata ed un quadro d'insieme su come si evolve la situazione. E di questo, Domenico, andiamo a parlare subito dopo la nostra pausa dedicata al traffico. Di nuovo insieme a Focus Economia, 17:46 minuti e 49 secondi. Siamo insieme a Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore. Stiamo parlando di Taranto, della zona dell'Ilva, dell'acciaieria e di tutto ciò che ne consegue. Domenico, ricordo brevemente che l'Ilva di Taranto è il più grande impianto siderurgico d'Europa, ha 5 altiforni e conta 12.000 dipendenti e pesa per l'80% sulle attività del porto di Taranto. Produce 8,5 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, il giro d'affari vale circa 10 miliardi di euro, numeri quindi non importanti ma importantissimi per l'Italia ma soprattutto per il centro-sud. Domenico, a quanto si è ridotta questa capacità produttiva e quindi il valore generato ogni anno dell'Ilva? Ma adesso la produzione sta viaggiando, la produzione di ghisa giornaliera, dalla ghisa poi si ricava l'acciaio, intorno alle 15-16 mila tonnellate ed era ben sopra alle 22 mila un anno fa, ma questo perché l'Ilva nel frattempo ha dovuto fermare sia l'altoforno 1 che l'altoforno 2, cioè dei 5 altiforni che ricordavi tu, il terzo è stato dismesso da molti anni, quindi ne funzionano 4. Di queste 4 il 5 è il più grande a livello europeo, di queste 4 adesso 2 sono temporaneamente fermi, appunto perché si devono fare gli interventi dell'AIA per metterli a norma e quindi per risanarli ambientalmente. Questo ha fatto sì che si produca meno ghisa, producendo meno ghisa si produce ovviamente meno acciaio, c'è quindi un calo sensibile già dall'anno scorso della produzione di acciaio che quest'anno si è accentuato e che si accentuerà maggiormente il prossimo anno quando dovrà fermarsi sempre per l'AIA l'alto forno 5. Non è un caso che nelle ultime settimane si stia ragionando anche su una integrazione fra Taranto e Piombino. Il discorso che si sta facendo è questo a grandi linee: Piombino ha un altoforno in attività, continuare a tenerlo ancora in attività per i prossimi mesi, in modo che la ghisa che non produce più Taranto perché ha fermi i suoi altiforni arriva da Piombino e in questo modo Taranto mantiene un battente di produzione di acciaio che consente di tenere lo stabilimento ad un punto di equilibrio economico. Ecco Domenico, ma per esempio tutto il materiale finito che era presso il porto e che doveva essere consegnato e che fino a qualche settimana fa era sotto sequestro, che fine ha fatto? È stato dato il via libera? Sì, certo, a maggio praticamente, quando poi la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza sulla legge 231 dell'anno scorso, una legge che i giudici, la cosiddetta legge Salva Ilva, una legge che i giudici avevano impugnato, questo materiale è stato dissequestrato, quindi l'Ilva ha potuto vendere tutta quella parte di prodotto che era circa 800.000 tonnellate fra semilavorati e prodotti finiti, ha potuto vendere tutta la parte di prodotto che era stata già ordinata dai clienti e ha potuto poi lavorare e trasformare un'ulteriore parte di prodotto con parte di questo materiale che fino a qualche tempo fa è stato sottoposto ai sigilli giudiziari. L'Ilva ha assecondato e sta assecondando quella piccola ripresa del mercato siderurgico che si intravede da ecco, alcune settimane. Domenico, andiamo a chiudere questo argomento. Chiedo la tua gentilezza di essere brevissimo su due domande. Per quanto riguarda la forza lavoro, quanti sono in cassa integrazione, quanti stanno lavorando, e poi sotto l'aspetto della proprietà, i Riva sono formalmente i proprietari, ma poi per capire il controllo a chi è affidato e quanto è intervenuto lo Stato. Allora ti rispondo, la forza lavoro sono circa 11.500 persone, di queste 11.500 persone circa 2.000 adesso sono sospesi dal lavoro e sono con i contratti di solidarietà o stanno smaltendo le ferie. Non c'è cassa integrazione perché i contratti di solidarietà sono stati preferiti in alternativa alla cassa integrazione. I Riva sono proprietari dell'azienda, però non stanno esercitando alcun controllo diretto sulla gestione e sull'attività aziendale, perché il decreto sul commissariamento, che poi è diventato anche legge, li ha di fatto temporaneamente estromessi. La fabbrica adesso è guidata dal commissario Enrico Bondi. Cosa succederà dopo i 36 mesi dell'AIA? Formalmente dovrebbero tornare, l'azienda tornerà di proprietà a Riva, però non è da escludere che da qui alla chiusura di questi 36 mesi non nascano nuovi scenari e nuovi percorsi, compresa anche una nuova proprietà. Ringraziamo Domenico Palmiotti per questa fotografia sull'Ilva, sulla zona di Taranto, e noi andiamo al nostro ultimo argomento. Lo abbiamo anticipato con le nostre notizie in breve. Prende il via oggi la vendemmia 2013 in Italia, si attiva un motore economico che genera oltre 9 miliardi di fatturato solo dalla vendita del vino e che dà occupazione a 1,2 milioni di persone. La vendemmia 2013 coinvolgerà 650.000 ettari di vigne e oltre 250.000 aziende vinicole. Secondo una ricerca di Coldiretti, per ogni grappolo di uva raccolta si attivano ben 18 settori di lavoro, dall'industria di trasformazione al commercio, dal vetro per bicchieri e bottiglie alla lavorazione del sughero per tappi, continuando con trasporti, accessori, eno, turismo, cosmetica, bioenergie. Abbiamo con noi come nostro ospite Giuseppe Martelli, direttore di Asso Enologi, l'associazione Enologi Enotecnici Italiani. Benvenuto Martelli. Grazie, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Grazie, ben trovato. Numeri che le ritornano, questi che ho dato, è così importante il settore vinicolo per il nostro paese? Beh, sicuramente sì, sui numeri poi potremo fare delle analisi più approfondite. Comunque il settore vitivinicolo è un settore bandiera per l'economia italiana, perché oggi come oggi il vino italiano è il più richiesto al mondo. Infatti, nonostante il momento particolare di crisi, le nostre esportazioni volano, nel senso che gli ultimi dati disponibili secondo Asso Enologi dicono che abbiamo incrementato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 10% il valore esportato, sia pur diminuendo leggermente le quantità vendute all'estero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mandiamo all'estero più bottiglie di maggiore qualità e soprattutto di valore aggiunto sempre superiore. Vendiamo di meno ma guadagniamo di più. Quindi evidentemente questo è un dato positivo, perché evidentemente sta vincendo la qualità. Sta vincendo la qualità, sta vincendo il gusto italiano, stanno vincendo, o perlomeno si rivelano molto ma molto positivi, forse più del previsto, tutte quelle aziende che hanno con lungimiranza visto che bisognava uscire dal guscio, ossia spostare l'attenzione non sempre e solo sui soliti mercati, magari quelli più vicini, ma espandere gli orizzonti e quindi andare a conquistare o consolidare anche mercati lontani. Parliamo degli Stati Uniti d'America, dove appunto il vino italiano è il più venduto, parliamo della Cina o dell'Asia in generale, parliamo di altri paesi minori che comunque stanno dando molte soddisfazioni ai nostri prodotti vitivinicoli. Ecco Martelli, poi torniamo sui numeri del settore. Prime indicazioni dall'avvio dell'attività della vendemmia partita oggi, come sarà questa vendemmia? Gli enologi sono i tecnici del settore vitivinicolo, cioè che quelli come direttori di cantina, come responsabili di produzione hanno in mano un po' in tutta Italia, da Bolzano a Pantelleria, il settore. E sui numeri io dicevo vediamo dopo, perché da un punto di vista qualitativo possiamo già fare delle proiezioni, da un punto di vista quantitativo Assenology non si sbilancia fino a quando almeno il 30% del prodotto non è stato conferito alle cantine. Oggi abbiamo una vendemmia che rispetto agli ultimi anni è ritardata per le bizzarrie del tempo che tutti conosciamo. A seconda delle latitudini da 10 a 20 giorni come succede in Alto Adige. Oggi ad esempio in Puglia sono state terminate le raccolte solo delle varietà precoci tipo Chardonnay, tipo Sauvignon, per i rossi Merlot, però in Alto Adige ad esempio questa raccolta non è ancora iniziata e la vendemmia sarà ritardata addirittura di 20 giorni. Quindi fare previsioni sulla quantità. Fare previsioni, certo, è difficile. Oggi è molto difficile, cioè i numeri li possiamo dare tutti, però poi bisogna vedere se vengono confermati nel tempo. Martelli, nell'ultimo minuto che ci è rimasto, le volevo chiedere, l'Italia risulta essere il secondo produttore mondiale di vino dopo la Francia. È un numero giusto questo che do? E poi le chiedo questo, cosa ci differenzia ancora dai nostri cugini transalpini? Non credo la qualità del prodotto. Per rispondere alla sua prima domanda, diciamo che l'Italia è sempre stata, diciamo, alternante in termini quantitativi con la Francia, però quello che vorrei sottolineare, come Assenology abbiamo rimarcato in tutte le lingue, in tutte le salse, che il discorso della quantità non è un discorso pagante, bisogna vedere poi sui mercati chi spunta di più, e l'Italia sta raggiungendo la Francia. Fatta eccezione dello champagne, che è praticamente un prodotto tipico francese. Prodotto di nicchia, certo. Tipico. Esatto, un prodotto di nicchia. Oggi ci stiamo avvicinando sempre di più. Che cosa bisognerebbe che l'Italia attuasse? Beh, innanzitutto un abbattimento della burocrazia. Secondo, una forza, diciamo, sistema più armonizzata e sinergicamente controllata. Poi però ricordiamoci che la Francia ha una tradizione molto più lunga dell'Italia e quindi bisogna prendere il meglio e magari scartare il peggio di quello che l'esperienza degli altri ci ha insegnato. E noi cerchiamo di prendere il meglio. Grazie a Giuseppe Martelli, direttore di Asso Enology. La nostra puntata va a chiudersi. Ringrazio per la realizzazione della puntata Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e in regia Valerio Rocchetti.